Per esempio, nel mondo della scuola, dove gli inquinanti e i veleni sono praticati non solo tra gli insegnanti, ma tra gli insegnanti e, per esempio, il dirigente, il personale della segreteria e con i genitori e i bambini e insegnanti, quindi è veramente un circolo non vizioso di più. Anche il vedere dall'esterno questi inquinanti è comunque molto difficile riuscire a praticare la danza del non giudizio, del vedere e basta, perché comunque uno c'è in mezzo e lo respira quotidianamente questa cosa, quest'aria così Sì, pesante. certo. Sì, mi stai dicendo che vedi, ieri sera stavo leggendo un libro di Scalate che mi ha regalato lui. C'era un tizio che se n'è andato in Alaska a fare la salita di una montagna che si chiama Thumb, Pollice, e si è campeggiato lì sotto e poi il mattino parte con gli sci, va alla base della parete e sai, a un certo punto deve salire con due piccozze e i ramponi su una parete verticale totalmente ghiacciata, cioè in cui la brina si era ghiacciata e aveva lasciato uno strato di 10 centimetri, e con le picche e con i ramponi è salito lì per 200 metri. La parete, lo spessore del ghiaccio era 10 centimetri, 7-8, e il tuo peso era affidato a 2 centimetri delle piccozze dentro, 1,5 cm di ramponi, tutto lì. A un certo punto, da un colpo di piccozza, la piccozza li rimbalza sulla roccia perché il ghiaccio di lì cominciava a essere più sottile. Si sposta a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, non c'è più niente da fare. Oh. E lui si trova slegato, perché era da solo, lì. Non c'è più niente da fare. Allora lui comincia a scendere. Scendere per questi 200 metri, affidandosi un centimetro e mezzo di punta dentro. Ok, arriva in fondo. Va bene, ci sono delle situazioni in montagna, come nella vita, che sono molto difficili. E la scuola probabilmente è una di quelle molto difficili. E lì bisogna diventare alpinisti molto più bravi, e se no è meglio stare veramente a casa. È chiaro che purtroppo uno deve andare a lavorare perché ci deve vivere, però certe situazioni vanno riconosciute come oggettivamente difficili. Dove tutto il sistema funziona a base di inquinanti, è una descrizione come quella parete che ti ho detto prima: non ci puoi piantare chiodi, non puoi tenerti, insomma, è affidato a niente. Però c'è un modo per rimanere sereni anche in un contesto del genere, che è quello di vederlo in prospettiva, cioè stare lì dentro come un antropologo che è andato a studiare un sistema, no? Vai in un'altra cultura, vedi come si verifica, non ti devi sentire parte di quella cultura lì, se non vuoi caderci dentro, cioè diventare osservatore di quello che succede e prenderne nota, come se appunto queste note che prendi devono essere più specifiche possibile, in modo che dopo, quando le riferisci ad altre persone, queste altre persone possono capire il tipo di studio antropologico che hai fatto. Di solito non funzioniamo così, di solito entriamo in un contesto e cominciamo a praticare il giudizio: guarda quello cosa ha fatto, guarda quello cosa non ha fatto, cioè siamo noi stessi i primi a usare gli inquinanti e poi puntiamo il dito fuori. Invece, se guardiamo un contesto del genere, lo guardiamo con una grande elicitando la grande mente. Noi possiamo accogliere tutto perché ogni cosa che accade lì c'è una serie di cause che non sono nemmeno dentro la scuola, ma per la scuola è niente, sono Certo. tutte fuori. Quindi possiamo osservare che lì dove tu vedi una continua violenza nelle relazioni, ma tutto sommato quella violenza è nulla rispetto ai luoghi dove i bambini vengono mandati, vengono allenati a essere soldati a 10 anni e dove vengono rovinati per tutta la vita la loro psiche. Quindi è la stessa violenza che prende forme diverse nel mondo. Quindi il problema è il solito, è quello della violenza, che vuol dire violazione della verità fondamentale, l'ubuntu, che siamo tutti interrelati. E quindi a seconda dei contesti, a seconda del tempo che si pratica questa violenza, la violenza assume forme sempre più gravi. E nella scuola oggi, come dici te, assume forme molto forti. Ma proprio per questo ci vogliono alpinisti più preparati, cioè alpinisti che non dico, ah, non riesco a piantare un chiodo, quindi me ne sto nella tenda. No, sono capace di andare su lo stesso ed eventualmente a tornare indietro vivi, vivi. Quindi la domanda, come al solito, è: quale cambiamento posso fare io al mio interno per poter vivere qua bene lo stesso? Poi cercherò di spostarmi perché, come antropologo, vado lì per studiare, non vado lì per viverci. E vado per studiare, per poter poi crearmi le condizioni per poter agire davvero su quei contesti, ma per far questo poi bisogna un gruppo di riferimento, lo faccio da solo, è ovvio che non ce la faccio, è il fallimento già sicuro. Quindi non bisogna mettersi nemmeno in testa dei progetti che sono fallimentari in partenza. Ecco, un progetto che invece è alla portata è quello che ti ho detto prima, tu fai fare uno studio antropologico, è proprio uno studio, a quel punto ricavi delle informazioni che servono su di te, ma se lo fai solo per te sei già fuori strada, perché ci sarà una parte di te che ti dice ma perché lo devo fare? Ecco, perché quando lavoriamo solo per noi stessi siamo nel mondo della materia, se lavoriamo nel mondo dello spirito noi andiamo a vedere le infamie che ci sono nel mondo, ma le osserviamo per prepararci a superarle noi stessi e il mondo, quindi siamo in missione. Tu vai nella scuola, sei una che va in missione, studiare cosa sta succedendo lì dentro, imparare ciò che c'è da apprendere, potertelo portare nella vita, perché sicuramente ce l'hai anche al tuo interno. Tu sei una persona che hai praticato il giudizio a non finire, hai praticato la fede negativa, tutte queste robe. Vederla in azione e poterlo fare con un sorriso, ecco perché ci vuole un canto dentro, come dicevo prima, ci vuole una visione, tenendosi in contatto con i compagni di viaggio. A questo punto la cosa diventa possibile, altrimenti ti metti in un'impresa che è disperata. E allora dopo la disperazione è la conseguenza. Okay.